24. La storia. Italiani, fascisti e le loro spie, insieme ai nazisti, conducono al massacro gli ebrei romani. Ma sono anche gli stessi ebrei a tradire gli appartenenti alla loro comunità, che comunque, nell'85% dei casi, alla fine si salva. A tocchi là. È quanto emerge dalla ricerca della Fondazione Museo della Shoah, realizzata insieme alla comunità ebraica di Roma, che fa luce sui numeri, sulle responsabilità e sul profilo stesso degli ebrei deportati da Roma prima e dopo il 16 ottobre del 1943, il giorno del rastrellamento del ghetto ebraico. La ricerca mette ordine sul numero dei deportati. A fronte dei 2091 che compaiono sulle lapidi, lo studio ne conta 1769 e tra questi 1022 nel solo sabato nero, 747 nei mesi successivi. Giovani, donne e anziani sono le vittime principali del sabato nero, mentre in assoluto sono gli uomini ebrei ad essere i più deportati. Ad avere la peggio, i ceti più poveri, che riescono meno degli altri a scampare alle deportazioni. L'80% di chi evita i rastrellamenti si salva tra Roma e dintorni. È un quadro che si muove tra delazione e solidarietà, quello descritto dai 250 testimoni diretti intervistati in questa ricerca. E tra i delatori c'è una donna, una figura leggendaria, è Celeste Di Porto. Chi c'ha le scarpe rotte la isola. Io già l'ho risolata stamattina. È da questa ricerca che partiamo per raccontare un personaggio ambiguo, misterioso, su cui è sceso il silenzio della storia. Una ragazza ebrea che negli anni terribili dell'occupazione nazista di Roma vende la sua gente ai tedeschi. È Celeste Di Porto, la pantera nera, la stella di Piazza Giudia. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la sua storia, una storia di amore, di morte, di tradimento, di delazione sullo sfondo del ghetto di Roma. Celeste Di Porto nasce il 29 luglio del 25. Allo scoppio della guerra, un adolescente, già donna, che non manca di suscitare invidia e ammirazione. A parlarcene sono l'archivista di Stato Michela Procaccia e lo scrittore Giuseppe Pederiali. Celeste cresce e diventa stella. Della sua bellezza parlano tutti. Assolutamente non passa inosservata, e per l'aspetto fisico, e per un certo modo sfrontato viene definito. Il padre di Celeste è preoccupato per le chiacchiere che circolano sul conto della figlia. Il mondo ebraico romano a cui appartiene Celeste, in particolare in quegli anni, considera ancora il matrimonio una faccenda dei genitori. Qui si apre un capitolo che è assolutamente difficile da affrontare e irrisolvibile, cioè era veramente proprio seria Celeste o erano le chiacchiere di un piccolo mondo pettegolo, magari invidioso di questa bellezza, di queste caratteristiche vistose. Piazza Giudia e dintorni sono un paese dentro il paese, dentro la città, con le sue caratteristiche, con dei suoi personaggi straordinari. Ma qual era il rapporto tra la città e il ghetto di Roma? Il giudio romano è assolutamente accettato come presenza. Da una parte è ghettizzato, è chiuso, è un diverso. È un diverso perché non ha la vera religione, è un diverso perché non potrà salvarsi. È un diverso proprio perché fisicamente è costretto a fare quei mestieri che i romani non fanno, da una parte, e quindi sul giudio si concentra la negatività, ma dall'altra parte nella vita quotidiana il rapporto che c'era fra la città e il ghetto era un rapporto di incontro. Gli stracciaroli, cioè tutto il mercato dell'usato, era gestito dagli ebrei, i medici ebrei erano bravissimi, e la cucina ebraica ancora oggi ben lo sappiamo, era ed è una cucina, una signora cucina. Avete sentito lo storico della letteratura Marcello Teodonio. Poi tutto finisce. Il 14 luglio del 38 il regime fascista pubblica il Manifesto della razza e il preannuncio delle leggi razziali promulgate di lì a poco. Gli ebrei italiani escono dalla vita pubblica, dalla professione, dalle scuole e anche il Padre Celeste deve chiudere la sua attività di commerciante, come racconta Giuseppe Di Porto, fratello di Celeste. Nel 1938, con l'entrata in vigore delle leggi razziali, mio padre e mia madre anche, che aveva il banco di ambulanti, dovettero riconsegnare la licenza alle autorità di quel momento. Andavamo a allontanarci dalla città, c'era proibito andare al cinema, c'era proibito anche delle volte entrare in un bar, insomma, in locale pubblico, non potevamo andare in nessuna parte. Mio padre dovette adattarsi, a cominciare a vendere qualcosa di casa, qualche oggetto d'oro. Dopo qualche mese ormai era agli sgoccioli. Il padre di Celeste deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia. Una delle cose a cui ricorre è mettere Celeste al servizio presso una famiglia di ebrei bene. Ce ne parla l'amica d'infanzia, Marina Anticoli. Era una ragazza ebrea di una famiglia numerosa e non avevano molte possibilità. Allora mio padre parlò con il padre e gli disse: perché non mi mandi tua figlia a casa? Dai una mano a mia moglie mentre le ragazze stanno a scuola, che non è aiutata da nessuno. E così si guadagna qualche cosa in più, mangia tutti i giorni. E venne questa ragazza era la famosa Di Porto, è stata con noi parecchio. Era una ragazza cordiale, carina, allegra, poi sai, della nostra età, quindi si parlava, si rideva, si scherzava, si mangiava, ci facevamo la merenda, e ci preparavamo il dolcetto, insomma, quello che facevano i ragazzi non potevano fare altro, dove si andava, non si poteva fare niente. Su Mix 24 con la storia di Celeste Di Porto continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia della stella di Piazza Giudia. Celeste Di Porto, una donna ebrea che durante la guerra è protagonista di episodi ambigui al confine tra le sue origini ebraiche e il regime fascista. Quello con Vincenzo Antonelli è l'incontro fatale. Lui è un agente di polizia e insieme agli amici e ai colleghi frequenta spesso le trattorie del ghetto ebraico che sono famose per la loro cucina. Ed è qui che Antonelli vede per la prima volta una ragazza giovanissima ma molto seducente, Celeste Di Porto. Ma ancora una volta anche questa pagina della vita di Celeste Di Porto resta un mistero, come testimoniano lo scrittore Giuseppe Pederiali e l'amica di Celeste Esterina Di Veroli. Fu una passione vera in tutti i sensi e cominciò a farsi vedere anche a Portico d'Ottavia con questo signore, pur seguitando lei stranamente a frequentare il fidanzato ebreo. Io mi ricordo solo questo, che Celeste era fidanzata con un ragazzo ebreo. Poi si lasciarono, forse o per il dispiacere, o forse per gioco che ci è rimasta dentro, per qualcosa gli deve essere successo al cervello, perché non può essere altro, guardi. Lei andava a pranzo, andava a cena con questa gente, si mostrava in giro, andava a letto sicuramente con l'Antonelli, ma per il resto conduceva una vita quasi normale. In quegli anni il ghetto è una delle mete preferite delle bravate di squadre fasciste e molto spesso Celeste è in loro compagnia. Celeste è bella, non abbassa gli occhi. Non è né timida né discreta e sicuramente è facile notarla. Viene vista spesso pranzare e cenare in compagnia di Antonelli, in quello che è un po' il ritrovo non ufficiale della banda, l'osteria del Fantino. Ce ne parla il testimone pacifico di Consiglio. Si doveva stare molto attenti perché incontro al nostro portone, quasi di fronte, c'era il ristorante, una trattoria che si chiamava il Fantino e che ci frequentava continuamente una squadraccia di fascisti insieme con la famosa Pantera Nera. Ma poi quella vita normale finisce. L'8 settembre del 43, dopo la firma dell'armistizio, Roma diventa città aperta, in mano di fatto al comando tedesco, e pochi giorni dopo per gli ebrei l'infame ricatto. 40 kg d'oro oppure la deportazione in massa. Se non avessimo trovato quest'oro qua, questa gente avrebbero prelevato 50 capi di famiglia israeliani e si avrebbero deportati in Germania. E la mattina appresso tutte le donne, tutti quanti là, si davano da fare, chi portava oro, chi si toglieva le fede, chi si levava le catenine. Celeste si aggira per le strade di Roma con una strana tranquillità, dato che appartiene ad un gruppo a cui si dà la caccia. Dalla richiesta dell'oro, che è il 26 settembre, alla retata del 16 ottobre 1943, è una serie velocissima di passaggi in cui prima si portano via i beni, poi si depredano gli uffici della comunità e alla fine, alle 4 del mattino del 16 ottobre, c'è il primo rastrellamento. Le prime strade circondate, bloccate, sono proprio quelle intorno al portico d'Ottavia. La retata del ghetto viene fatta da Theodor Dannegger, che è uno specialista in Judenaktionen, cioè in rastrellamenti, e viene da fuori. Via della Reginella non è la prima via della zona investita dalla retata, è bloccata come tutta l'area circostante. La stessa Settimia Spizzichino racconta che loro riescono a rendersi conto di quello che sta succedendo e vedono portare via le famiglie, per cui anche a Celeste può essere successa la stessa cosa. Dopo qualcuno dirà che in realtà era stata avvertita. La famiglia di Celeste comunque riesce a scappare e si rifugia a Primavalle. Sono giorni di paura e di follia dopo il 16 ottobre, il sabato nero. Cominciano i tradimenti e le delazioni, le estorsioni nei confronti degli ebrei che si sono nascosti, ma anche i saccheggi dei negozi rimasti incustoditi. Dunque, le bande di Vincenzo Antonelli, l'amante di Celeste Di Porto, hanno mano libera, anche perché i tedeschi hanno messo una taglia sostanziosa per ogni ebreo denunciato e fatto arrestare. E dietro molte di queste delazioni, almeno a quanto si dice, c'è proprio lei, Celeste Di Porto, la cosiddetta Pantera Nera. Poi però, poche settimane dopo, la banda arriva proprio in casa del padre di Celeste a raccontarcelo il testimone pacifico di Consiglio. Improvvisamente vedemmo aprire con violenza la porta di casa di questo amico Angelo Di Porto e entrano dei fascisti con le pistole in pugno, fermi tutti. Noi li conoscevamo perché a volte si affacciavamo dalla finestra, dice: questi sono della Pantera Nera e della banda Rosselli. E c'era anche la Pantera Nera, la Celeste Di Porto. Nella trattoria Il Fantino, in due giorni molto vicini, il 19 e il 21 febbraio del 44, i membri della banda e Antonelli arrestano una serie di persone in precedenza indicate da Celeste. Ce ne parlano Aldo Pavia e Michela Procaccia. A chi consegnava o denunciava un ebreo alle autorità naziste veniva corrisposto un premio di 5.000 lire se era un maschio adulto, quindi in grado di lavorare, 3.000 lire per una donna, 2.000 lire per un bambino. E 5.000 lire è una grossa somma per l'epoca, calcolando che è l'epoca del famoso se potessi avere 1.000 lire al mese. Tanto per dare un'idea, un bel appartamento costava sulle 30.000 lire, 40.000 lire, e quindi con 6-7 ebrei ti compravi casa. In un momento appunto di miseria, di terrore per tutta la popolazione romana, appunto in particolar modo per gli ebrei, Celeste circola e viene descritta dai testimoni vestita di seta, vestita con grande eleganza, piena di gioielli, in maniera molto ostentata, gioielli che vengono riconosciuti. Sono i gioielli che tutti sapevano appartenere alle persone che lei avrebbe denunciato e che avrebbe fatto arrestare. Per Celeste Di Porto è un tragico riscatto sociale. Quell'adolescente costretta ad andare a fare la donna di servizio è ora una ragazza che ostenta ricchezza e gioielli. Ma il prezzo è un prezzo di sangue. Il 23 marzo del 44 una bomba partigiana fa una strage in via Rasella, muoiono 33 soldati tedeschi e la rappresaglia di Kappler, il comandante tedesco a Roma, è feroce. Alle Fosse Ardeatine dovranno infatti morire 335 italiani, come racconta Michela Procaccia e il giornalista Robert Katz. In questi giorni così concitati per Roma e così drammatici si inserisce un altro degli elementi misteriosi di questa storia, che non sono pochi. La lista Caruso, cioè la lista dei prigionieri consegnati dalla polizia italiana, dal questore Caruso, ai tedeschi per la fucilazione alle Ardeatine. Fra quali nel carcere sulla lista era un certo Angelo Di Porto, che era il fratello di Celeste. E io con i miei occhi ho visto il documento che è stato portato via dal via Tassel quando i tedeschi si sono ritirati. Ho visto la lista dove c'era Angelo Di Porto di sotto e un altro nome su una striscia di carta messa sopra. Di Porto è stato liberato, il fratello, e poi non so se era proprio Lazzaro Anticoli. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, un gruppo di fascisti su indicazione di Celeste Di Porto irrompe a via Reginella numero 2, dove viveva la famiglia Di Porto e dove c'era anche Celeste, e rastrella un gruppo di ebrei. Moltissimi riescono a scappare, alcuni riescono a scappare dalle finestre. Celeste viene arrestata nella notte tra il 23 e il 24 e viene rilasciata la mattina dopo per intervento di Antonelli. Ce ne parla Michela Procaccia, Giacomo Di Veroli, genero di Lazzaro Anticoli. Tra l'altro avviene quello che è proprio il cuore dell'impianto accusatorio nei confronti di Celeste Di Porto, e cioè l'arresto di Lazzaro Anticoli. Salutò il mio suocero e questi allora vennero tre fascisti, presero il mio suocero, ma il mio suocero faceva il pugilato, era un campione di pugilato, e reagì e mi mise due proprio knockout, ma il terzo proprio col calcio della pistola lo tramortirono e lo portarono in via della Reginella proprio a casa di questa Celeste Di Porto, la Pantera Nera, e lo impirono di botte, proprio lo impirono di botte, poi lo portarono a Regina Celi e da lì alle Fosse Ardeatine dove è stato fucilato. E però aspetti, questa è storia, ancora c'è scritto in una cella di Regina Celi, lasciò scritto un messaggio: mi chiamo Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, e faccio il pugilatore. C'è scritto: se non arriveto la famiglia è colpa di Celeste Di Porto, rivendicatemi. Questa situazione, l'attività della banda di Antonelli, della banda Roselli, di Antonelli e di Celeste sembra avere un picco. La maggior parte delle testimonianze relative a più certe, più sicure, relative a delazioni di Celeste Di Porto avvengono proprio in questi giorni e sembrano essere proprio determinate da questa caccia all'ostaggio che si scatena nella città. Su Mix 24, con la storia di intrighi e misteri di Celeste Di Porto, continuiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Celeste Di Porto. Ancora una volta il suo nome si lega per vie misteriose alle pagine più tragiche del nazifascismo a Roma. Ma poi la guerra, almeno a Roma, finisce. Il 4 giugno del 44 gli alleati entrano in città e allora, dopo la paura, è il tempo della caccia ai collaborazionisti e ai delatori. Le cose cambiano completamente per Celeste. E a questo punto non ha ancora compiuto 19 anni, li sta per fare. E una folla si raduna sotto casa sua E qui c'è un indizio del carattere di questa ragazza. Si potrebbe pensare, insomma, come reazione naturale all'arrivo degli alleati, la fuga. Celeste non ci pensa per niente. Cosa straordinaria, inimmaginabile, data la situazione, che lei invece era in casa, tranquilla in casa sua. Lei si è affacciata proprio dicendo: ma che volete, questa confusione, cosa cercate? Li affronta a muso duro, risponde per le rime, ma la situazione sta per degenerare, perché la folla inferocita la vuole prendere. Lei si è ritirata e ha fatto affacciare alla finestra questi due militari americani, riconoscibili, perché uno, almeno uno era di colore secondo le testimonianze, dicendo, lei urlando: se avete qualcosa da dire ditelo a loro. Quando interviene una pattuglia di partigiani comunisti, dirà il rapporto di polizia, che sostanzialmente la salvano, l'arrestano, ma arrestandola la salvano, la prendono, la portano al commissariato, al solito commissariato di Piazza Farnese. Viene poi portata alle Mantellate e lì non è chiaro com'è, ma insomma viene poi subrapidamente scarcerata. Le voci popolari parlano di corruzione: Celeste aveva messo da parte soldi nel corso di questi mesi, aveva i famosi gioielli, insomma si parla di corruzione. Dopo il secondo arresto si decide a lasciare la città. Celeste Riporto, insomma, sembra averla scampata. Come sempre, anche stavolta è passata, a quanto sembra, dalla parte del vincitore. Da Roma la Pantera Nera arriva a Napoli, dove, come molti altri fascisti, spera di far perdere le sue tracce. E uno dei racconti che circolano sulla fuga di Celeste da Roma verso Napoli è che sia partita su una camionetta di soldati americani ai quali si sarebbe prostituita per farsi dare il passaggio, per farsi accompagnare da Roma fino a Napoli. Ne perdiamo le tracce fino al 45, per diverso tempo, quando a Napoli non solo c'è gente che scappa perché non vuol far perdere le sue tracce, ci arrivano anche altro genere di gente. Ci arrivano per esempio alcuni ebrei romani che si arruolano per combattere a fianco degli alleati. E alcuni ebrei romani, tre ebrei romani che arrivano a Napoli in questi giorni, com'è come non è, si imbattono in Celeste. E lì probabilmente si imbattono in Celeste perché cercano compagnia femminile e quindi vanno in una casa d'appuntamenti. Celeste, in questo caos, viene riconosciuta da un ebreo di Piazza Giudia. Si chiama Stella Martinelli, quindi Stella, come col suo soprannome era stato attribuito il nome con cui veniva normalmente chiamata anche in famiglia per la sua bellezza, e Martinelli, che è un cognome di comodo che lei ha adottato in questa sua vita napoletana. La denunciano, la fanno arrestare. Questo è il definitivo arresto di Celeste, che viene poi prima portata a Poggio Reale e poi trasferita a Regina Coeli, interrogata e le vengono contestate le accuse. Celeste non smentisce il suo carattere, resiste abbastanza a lungo negando di essere Celeste di Porto, racconta una storia confusa, raffazzonata, in cui un certo dice di essere ebrea. Il Martinelli non è un cognome ebraico. Questa volta neanche la Pantera Nera riesce a salvarsi dal processo. È l'aprile del 47 a Roma, il processo contro la banda Roselli, che vede tra gli altri imputati anche Celeste di Porto, si apre in un clima di grande tensione. A sorpresa, però, non tutte le testimonianze accusano la Stella di Piazza Giudia. Sentiamo l'amica di Celeste, Esterina Di Veroli, e il testimone, Alberto Piazza. E strillavano, e ognuno dice di questo e quell'altro. A me mi dissero direttamente: non è giusto che fai questa testimonianza. E stavano nascosto dentro a una casa, e lei veniva su a questa casa a Venezia e ci avvisava: scappate, che muove che mi fascista. Veramente dalla testa ai piedi, veramente ghiacciata mi sono sentita. E mia sorella sempre che mi stringeva o la gonna o la mano. Io mi giro e gli dico: che vuoi, ce l'hai? Tutta sorridente. Per un po' di giorni, per favore, non vi fate vedere, rimanete dove state. Grazie. E mi sono... Il clima del processo si carica di un ulteriore elemento, quello della personalità dell'imputata, e se si leggono i resoconti di stampa sembra che il processo sia a Celeste di Porto invece che alla banda Roselli. In generale gli imputati tutti reagiscono con grande sfrontatezza, cominciando da Antonelli, che fa il saluto fascista in tribunale, però i giornali e il pubblico anche sta lì solo per lei e diventa la protagonista per un sacco di elementi. Intanto è una donna bella, tenebrosa, di dubbi costumi, quindi c'è un cliché, la Dark Lady. si costruisce la figura di questa pantera nera, che è il soprannome che le era già stato dato, con tutte le caratteristiche della protagonista di un romanzo d'appendice. Quindi come lei compare, cominciano le grida a morte, il tribunale è francamente ingovernabile e lei reagisce con un atteggiamento sprezzante prevalentemente, interloquendo col pubblico, rispondendo per le rime al pubblico con questo carattere appunto molto combattivo e molto energico che le era stato sempre riconosciuto. La corte non riesce a collegare il tradimento degli ebrei con uno scopo politico, quindi gli imputati vengono processati soltanto per furto e sequestro di persona. Le testimonianze sono numerosissime, ritroviamo fra i testimoni tutti i protagonisti di questa storia, per esempio tutti i testimoni che raccontano di averla vista con i gioielli e di aver riconosciuto i gioielli, addirittura una testimone che riconosce i suoi gioielli. Però lei sostiene sempre e ha sostenuto sino alla fine di essere innocente, le cose delle quali è stata accusata lei non le avrebbe commesse, lei andava al ristorante, sì, con dei fascisti, ma ci andava per mangiare, insomma, lei non aveva denunciato i suoi correligionari. Il 24 giugno 1947 Celeste viene condannata a 12 anni, di cui 5 le saranno condonati per collaborazione e concorso in sequestro di persona continuato e concorso in furto aggravato continuato. La fine pena è prevista per il 9 maggio 1952. Le vengono date le attenuanti generiche per la giovane età e lo stato particolare in cui si svolge la vicenda. Di fatto, sconterà soltanto 3 anni. Nel 1950, insomma, Celeste Di Porto è di nuovo libera, ma la sua storia riserva ancora molte sorprese. Infatti, nel carcere romano delle Mantellate, Celeste ha conosciuto Elena Alvino, una donna tedesca, moglie dell'ufficiale che aveva materialmente arrestato Mussolini nel 1943. Tra le due donne da principio c'è un odio feroce, poi invece questo incontro cambierà ancora una volta la vita di Celeste, come racconta Armando Droghetti, amico di Elena Alvini e il cappellano Ernesto Piacentini. Il carcere delle Mantellate aveva, diciamo, una piccola chiesa e Celeste era stata chiamata a far parte del coro perché aveva una bella voce. Nel contempo, entrando Elena Alvino, fu reclutata anche lei per far parte del coro. Un giorno successe un fracasso talmente grande perché la Celeste Di Porto aveva scoperto che una sua amica le aveva detto una bugia, per cui le corse dietro appena terminata la funzione e cominciò a gridarle addosso ogni improperio. Questo frastuono arrivò anche dentro la chiesa e Elena si risentì moltissimo, uscì, la prese di petto e gli disse che lei non sarebbe andata più nel coro perché adorare Dio vuole raccoglimento, vuole silenzio. La signora Celeste odiava la signora Elena perché tedesca e diceva che avrebbe voluto strapparle tutti i capelli che aveva in testa. Però quando si trova di fronte a Elena, che la prende per mano, si siedono vicine e Elena comincia a parlargli di Dio, dell'amore di Dio, con le gote su cui scendevano le lacrime, Celeste, dopo un primo momento di sbandamento, capisce che si trova di fronte a un momento straordinario della sua vita e sente che cascano dentro di lei delle barriere enormi e diventa una persona nuova. Qualche giorno successivo, Celeste scrive una lettera su un foglio di carta con una matitina che custodiva come un diamante. Credo, credo, credo. Da quel momento in poi, per tutta la esistenza, la Celeste si rivolgerà a frate Jacopo nelle lettere, nel parlare, carissima mammina. Elena dirà sempre: Celeste, anima della mia anima. E secondo me chi l'ha fatta riflettere anche è stato proprio il carcere, cioè la mancanza di libertà. Dopo le Mantellate, Celeste viene trasferita al carcere di Perugia e lì Elena la segue. Ce ne parla il sovrintendente degli archivi umbri, Mario Squadroni. Nel periodo in cui era qui carcerata a Perugia, riceveva la visita di una tale signora Alvino, che poi, sto parlando di un documento ufficiale, che era stata definita visitatrice delle carcerate e con questa signora Alvino ha intrapreso evidentemente una amicizia che poi ha dato dei risultati, appunto, addirittura si è battezzata. Celeste chiede di poter usufruire dell'indulto emanato a febbraio del 48, che utilizza uscendo a marzo. Viene ospitata dalle suore clarisse Colettine di Assisi e lì prosegue ancora la formazione spirituale fino al battesimo, che avverrà il 15 marzo del 48. Ce ne parlano ancora Michela Procaccia e Armando Droghetti. È stata battezzata ad Assisi, nella Basilica di San Francesco d'Assisi, ha inviato un bigliettino, un santino, in cui dichiara di perdonare tutti. Celeste Di Porto, insomma, sembra una donna nuova. Tornata a Roma, inizia a lavorare in uno studio di sartoria, ma la sua storia non è ancora finita, come testimoniano Armando Droghetti e il cappellano Ernesto Piacentini. Ritornata a Roma, cominciò una vita ordinaria. Frequentò una signora sarta di grande valore e lì approfondì questa conoscenza con il suo figliolo Aldo. E questa conoscenza maturò, anche Elena conobbe l'uno e l'altro e li accompagnò in questa preparazione al matrimonio, il quale avvenne in Assisi nel 51 con testimoni di onore. Al matrimonio vi erano l'onorevole Giordani e il conte Alvino per testimoni e le altre focolarine, tra cui mi sembra anche Chiara. Il giorno del matrimonio nel 1948, giorno delle elezioni, uscì un grande manifesto a Perugia che diceva grosso modo così: il Papa l'ha battezzata e De Gasperi l'ha graziata. Ad un certo punto la Celeste divenne un fatto politico e momento di scontro tra comunisti e Democrazia Cristiana. Continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Dunque, Celeste Di Porto è ancora nell'occhio del ciclone, è diventata addirittura un vero e proprio caso politico e la sua storia supera i confini nazionali. E a interessarsene anche una giornalista e scrittrice americana, Bigan Wilcox, che da New York vola a Roma per cercare di ricostruire l'intricata e misteriosa vicenda della stella di Piazza Giulia. Sentiamo. Found first. Dapprima ho trovato delle storie incredibili, che aveva sposato un conte e l'aveva ucciso, oppure follie di ogni sorta. Avevo letto un articolo in cui si parlava di un marito di Celeste Di Porto. Ho provato a rintracciarlo e l'ho trovato. Nel marzo del 2003 sono andata a trovarlo e lui si è detto disponibile a parlare con me. Aveva assistito ad alcune udienze del processo, l'aveva conosciuta prima della guerra, ad una festa. Ma si era dimenticato di lei. Poi c'era stato il processo, con tutto il clamore che lo circondava. Personalmente ho avuto l'impressione che egli non avesse visto i documenti del processo, che non avesse parlato con gli accusatori e che non sapesse neanche molto di Lazzaro Anticoli. Ad ogni modo, tenne a ribadire che Celeste Di Porto era in pace con se stessa e con i suoi ricordi del passato, di cui però, aggiunse, non parlava molto. Claudio Procaccia, storico e coautore di una ricerca appena uscita e finanziata dalla Fondazione Museo della Shoah sulle deportazioni degli ebrei romani in quei mesi terribili tra l'ottobre del 43 e il giugno del 44, che cerca di far luce questa ricerca sul mondo dei delatori, collaborazionisti, ma anche coloro che hanno aiutato gli ebrei a salvarsi. Claudio Procaccia, qual è la novità rispetto al tema delle delazioni in questa ricerca? Allora, uno degli elementi che emerge da questa ricerca è soprattutto l'analisi quantitativa, nel senso che ovviamente era già noto, ad esempio appunto Amedeo Stiguerrazzi, uno degli autori di questo volume, aveva già messo in mostra con Caino a Roma, il suo volume, la presenza di delatori. Quello che oggi emerge è che abbiamo a oggi, e si tratta probabilmente di una sottostima, almeno la metà degli ebrei deportati sono stati deportati a causa di delatori italiani che hanno denunciato le autorità naziste i cittadini ebrei. Qual è la delazione più inquietante che avete trovato? Forse sono tutte inquietanti. Sono quasi tutte inquietanti. Diciamo, la dinamica inquietante che è emersa dallo studio di Amedeo Stigliarazzi è che spesso non si trattava solo di bande, ma si trattava soprattutto anche di semplici vicini di casa, appunto, oppure dei portieri degli stabili in alcune circostanze, e quindi di persone comuni, e non sempre era per motivi legati associati alla necessità di denaro o la volontà di lucro rispetto per paura agli ebrei. Anche per risentimenti personali, per tutta una serie di vicende. In realtà questa ricerca dà anche la misura della miseria umana, ma anche della grandezza umana, come avrò modo poi meglio di spiegare. Rispetto al mondo di coloro che invece aiutano a salvare. Ecco, rispetto a questo mondo qui, di quello buono, sì. che cosa c'è di nuovo? Beh, innanzitutto abbiamo tirato fuori dal punto di vista delle dinamiche e delle proporzioni attraverso lo studio di Daniele Spizzichino, che è un demografo, ha dimostrato che la maggioranza degli ebrei, la stragrande maggioranza degli ebrei, era nascosta in città, che hanno girato in vari luoghi. Raramente le famiglie sono rimaste tutte insieme, tutti nello stesso posto, per tutto il tempo dell'occupazione nazista, che era di 9 mesi, che spesso sono stati aiutati da persone anche sconosciuti, che li hanno, nell'80% dei casi e oltre, sono stati aiutati gratuitamente, cioè non hanno dovuto neanche, in alcuni casi hanno semplicemente contribuito volontariamente alle spese. E l'altro elemento, appunto, è anche ovviamente un contributo straordinario dei conventi nel nascondere gli ebrei, con una differenza rispetto ai privati, che in questo caso circa il 50-60% dei casi gli ebrei hanno dovuto pagare per rimanere all'interno dei conventi. E cioè, quindi la Chiesa chiedeva soldi rispetto ai privati? Sì, diciamo, gli intervistati nel 60% dei casi hanno risposto, in 56% dei casi hanno risposto che pagavano per rimanere, e alcune testimonianze in profondità che abbiamo fatto nel passato hanno detto che in alcune circostanze ci sono stati alcuni momenti di pressione conversionistica, addirittura messi alla porta. Però vogliamo dire una cosa, che se non ci fossero stati conventi, così come la risposta del territorio, non staremmo qui a parlare più di comunità ebraica di Roma. Quindi erano proprio i luoghi, no, di rifugio. Esatto, perché credo che i nazisti sapessero perfettamente che gli ebrei erano nascosti in molti conventi. Non so come dire, c'è stato sicuramente un elemento di tutela. Ecco, ma invece sulla figura di Celeste Di Porto, di cui abbiamo raccontato la storia, alla fine, dopo questa ricerca, si sa tutto? Per definizione di un fenomeno, soprattutto di un fenomeno così complesso, raramente si sa tutto. Nel senso, al di là della leggenda che si è creata intorno a questa donna, alla fine è una tra i tanti delatori che voi avete studiato? Allora, dal punto di vista strettamente delle dinamiche, in qualche misura sì, dal punto di vista dell'identità culturale della persona, no? Perché? Era un'ebrea, e quindi questo, come dire, da un valore diverso. L'unica ebrea, o si può dire? Dunque, l'unica ebrea di cui ufficialmente si è celebrato una serie la documentazione, come dire, è certa. In realtà, dagli studi di Amedeo Stigliarazzi sappiamo che in realtà c'erano anche altri ebrei, e anche all'interno della nostra comunità, soprattutto gli anziani, sapevano perfettamente che c'erano anche altri ebrei che avevano collaborato con i nazisti. Claudio Procaccia, ma qual è il metodo di questa ricerca? Io parlerei di metodi. Un primo piano che è strettamente stato quello della documentazione archivistica. Siamo partiti da una ricerca già svolta egregiamente dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, e che è di Milano, che ha prodotto il libro della Picciotto, il libro della memoria. Siamo partiti da quei dati e abbiamo poi nucleato la parte riguardante Roma, e abbiamo fatto tutta una serie di approfondimento sui singoli deportati. Poi abbiamo usato un altro metodo, cioè quello della somministrazione del questionario, che, come le dicevo prima, per quanto riguarda i salvati. Poi quante persone avete intervistato attraverso i questionari? Allora, sono 250 persone, e ovviamente su un campione, perché immaginate, appunto, la comunità non aveva grandi numeri all'epoca, e oggi purtroppo, ancora meno. Come dire, per ovvie ragioni. Ecco perché il presidente Wasserman ha insistito tanto, perché lui lo voleva fare addirittura una decina di anni fa questa ricerca. Se qualcuno l'avesse fatta addirittura 20 o 30 anni fa, avremmo avuto classi di età diverse e avremmo potuto tirare fuori ulteriori dati. Purtroppo forse abbiamo preso uno degli ultimi treni, se non l'ultimo treno, per poter effettuare una ricerca di questo tipo. Quindi si tratta di nipoti? No, si tratta di, abbiamo preso le classi di età di gente che andava dai 5-6 anni, insomma dall'età della memoria, insomma che avevano, insomma, dall'età della ragione. Quindi diretti testimoni. Sì, diretti testimoni. Ma alla fine, Claudio Procaccia, qual è il quadro che emerge, se volessimo sintetizzare questa ricerca? Innanzitutto che le persone del territorio hanno risposto meglio di altre istituzioni. Emerge su Roma una risposta straordinaria del territorio. Questo credo che sia un elemento importantissimo. Ovviamente, e quanto, lei mi diceva prima una percentuale, qual è la percentuale di salvati? 85% circa, perché credo, cioè, che perché un sia... unicum? Perché un unicum Roma? Se non è un unicum Roma, è un caso raro. Perché? Perché allora io, le motivazioni possono essere tantissime. No, me ne dica una, la più importante. La più importante, vabbè, sono tante, raramente avviene, questi fenomeni si producono attraverso un unico caso. Cioè, uno è la lunghezza della durata dell'occupazione nazista, che è inferiore a quella di molti altri luoghi in Europa. Seconda, ovviamente l'organizzazione tedesca, secondo molti storici, era inferiore rispetto ad altre aree d'Europa. Terzo, secondo me, anche l'idea di Roma città aperta, la presenza del Vaticano, sicuramente, come dicevo, è stata fondamentale per la salvezza della stragrande maggioranza degli ebrei, ma come dicevo ancora di più rispetto a altri luoghi d'Europa, a Vichy, cioè la risposta della popolazione romana è stata decisamente diversa. Maggiore. Credo che sia estremamente importante e positiva. Ci sono tantissimi episodi di salvataggi e quindi questo è importante. È ovvio che va detto che per un delatore poteva far prendere 100 persone, e per salvare un ebreo ci vogliono una rete di 100 persone, per cui è evidente che poi i danni dei delatori sono stati enormi. Non vanno sottostimati. Grazie.